Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici e buongiorno al pubblico del Salone di Torino. Oggi siamo naturalmente anche noi qui in diretta e salutiamo il vecchio oggetto libro. Si parla molto di editoria digitale a Torino, ma noi fedeli alla nostra trasmissione parleremo proprio di libri di carta, del vecchio oggetto libro al quale siamo affezionati. E parliamo di libri che parlano d'Italia attraverso un'opera narrativa e attraverso un saggio di politica, e quindi saluto i nostri ospiti che sono Melania Mazzucco e Marco Aime. Cominciamo con la prima, cominciamo quindi con un romanzo, con la narrativa. Melania Mazzucco ha appena pubblicato Limbo da Einaudi, 480 pagine, 20 euro. In questo romanzo siamo alla Dispoli, dove torna da eroina, una soldatessa italiana che era a distanza in Afghanistan, che è stata gravemente ferita in un attentato. La protagonista cerca di recuperare dei ritmi consueti in una piccola famiglia borghese e naturalmente questo è molto difficile. A un certo punto, per esempio, scrive l'autrice, rispetta le tradizioni, in una famiglia le abitudini sono tutto o quasi tutto, è come il cemento che tiene insieme i mattoni e rinforza i muri, altrimenti è come costruire con la sabbia, al primo sbaffo di vento crolla tutto, ma recuperare questi ritmi appunto è molto difficile, il ricostruire il rapporto con i parenti, con la sorella è complesso e c'è una presenza misteriosa che a un certo punto fa da svolta al libro e che determina in Manuela, che è la protagonista del libro, una riflessione sulla propria vita e le proprie prospettive. E il libro si svolge su due registri, il primo che viene scandito dai capitoli intitolati Live, cioè i capitoli con la cronaca quasi giornalistica che dimostrano una capacità straordinaria, quasi da entomologo, di scavare nella realtà della famiglia, della protagonista, della sua vita, e invece l'altra serie di capitoli intitolati Homework, compiti a casa, in cui Manuela parla di sé, della propria esperienza, della scelta che ha fatto, parla per esempio dell'esperienza appunto di guerra in Afghanistan, scrive: la responsabilità mi logorava, la fatica fisica mi sfiniva, temevo di deludere me stessa e i miei superiori e di non essere adatta al comando degli uomini, come tanti anni prima aveva sentenziato un ufficiale. Ci sono delle belle pagine sull'ammissione, sull'addestramento, nelle quali pagine, per esempio, la protagonista parla dello sforzo che queste ragazze fanno per essere ammesse al loro corso. Nessuna di quelle ragazze difettose aveva rinunciata, tentavano con la mia stessa determinazione, erano disposte perfino a mentire. E poi naturalmente ci sono le cronache dell'Afghanistan, cronache molto belle, cronache di guerra, e vi voglio leggere queste righe. In quel momento ho capito cos'è la guerra: essere una marionetta nelle mani di un burattinaio che non ti conosce, non ti apprezza, ti ignora. Il mio destino non dipendeva più da me, dalla mia abilità, dalla mia bravura. Era come mi aveva raccontato il nonno: le battaglie dei greci e dei troiani sotto le mura di Troia. I guerrieri combattono, mirano, uccidono, ma sopra di loro ci sono gli dèi, e sono gli dèi a decidere chi deve cadere e chi sopravvivere. Tutto il loro coraggio e il loro eroismo non contano più niente. E allora di questo parliamo con Melania Mazzucco. Allora, lei fra l'altro, per documentarsi su questo libro, è stata in Afghanistan. Non sono mai stata in Afghanistan, è il paese che mi è sempre stato interdetto, forse per questo ho scritto questo romanzo. È la meta del viaggio che non ho mai fatto, che mi è stato impedito dalle guerre che lo hanno assassinato per 20 anni, forse anche più. E alla fine è diventato un viaggio dentro la letteratura. Infatti di Afghanistan avevo già scritto in un altro libro di qualche anno fa, che si chiamava Lei così amata, che raccontava proprio il viaggio in Afghanistan di una delle viaggiatrici che nel 1939 c'era andata con una Ford. E ovviamente mi sono documentata, come ho sempre fatto per tutti i libri che scrivo, però ci tengo a dire che questo è un libro di invenzione, in cui il personaggio di Manuela è nato dalla mia immaginazione, dal mio desiderio di raccontare una guerra inconsueta, una guerra di oggi, attraverso una prospettiva completamente inedita, che è quella di una donna militare, qualcosa di più di una donna soldato, perché Manuela è un sottufficiale degli alpini a cui è stato affidato il comando di un plotone. E può capitare oggi in Italia che una donna si trovi a comandare un plotone di 30 uomini, per esempio. Questa era una realtà completamente inedita, che crea una sorta di squilibrio, di destrutturazione sia nel personaggio femminile sia negli uomini che le devono obbedire, ovviamente. Ecco, è stato difficile rendere questa sensibilità femminile nel fare il soldato, nel fare il sottufficiale? Beh, mi interessava cercare di capire che innanzitutto perché una donna giovane di oggi possa sentire questo desiderio, perché è un pensiero che fino a 20 anni fa, anzi in realtà poco più di 10 anni fa, non sarebbe stato neppure immaginabile, perché le forze armate erano chiuse alle donne e oggi è una professione che viene scelta come un'altra. Mi interessava capire che cosa una donna può portare nel mestiere delle armi, che è sempre stato storicamente e sempre resterà per certi versi un mestiere virile. Ecco, a un certo punto poi nel suo libro irrompe un'altra Italia, cioè l'Italia della malavita organizzata, che accompagna e determina, insomma, la svolta nella vita di uno dei protagonisti. Non vi racconto naturalmente la storia per non rubarvi la sorpresa, anche perché è molto ben costruita, ma insomma c'è questa irruzione di quest'altra Italia, dell'Italia della malavita organizzata. Come è riuscita a far convivere, diciamo, in qualche misura queste due immagini dell'Italia, queste due realtà così contraddittorie del nostro paese nel suo libro? Beh, mi piaceva proprio l'idea di raccontare due guerre parallele, altrettanto silenziose e ignorate. Una è la guerra che stiamo facendo in Afghanistan ormai da molti anni, insieme a tanti altri paesi occidentali che sono andati a compiere una missione di pace, diciamo così, di cui si parla pochissimo, di solito soltanto quando muore qualcuno e quindi quando ci sono dei funerali di Stato, c'è la bandiera e molta cerimonia e molta retorica, però non si dice in realtà quasi nulla di quello che sta succedendo veramente lì e di che cosa in effetti sia la vita quotidiana in una base avanzata, per esempio come quella in cui sta Manuela nel deserto afghano, con temperature fino a 50 gradi d'estate e freddo intenso d'inverno, assediati in una specie di fortino in cui il paese ti sta intorno e non puoi vederlo, senza riuscire a capire se stai effettivamente facendo qualcosa per le persone, per la popolazione che ti circonda. Questa è una guerra che è stata definita invisibile e forse anche difficile da raccontare. Poi c'è un'altra guerra altrettanto invisibile, in un certo senso, di cui si parla soltanto quando qualcuno muore ammazzato, che si pensa sempre che riguardi soltanto gli altri, e invece è la guerra italiana per eccellenza. Mi piaceva che le due storie fossero in qualche modo parallele e che i due personaggi fossero l'uno l'ombra dell'altro. È interessante, tornando all'Afghanistan, anche questo grande rispetto che manifesta la protagonista del suo libro nei confronti anche degli afghani, dei combattenti afghani. Dice: avevano un coraggio invidiabile, disprezzavano la morte e tutti noi li rispettavamo. Se io combattessi, scrive la protagonista, per difendere la mia famiglia e il mio paese, non avrei paura di morire. Non ce l'ho stanotte, la mia famiglia è il Pegaso. Sì, questa è una delle scene d'azione, diciamo così, che in cui a un certo punto il plotone di Manuela viene richiesto di fare un'operazione di cordon en search. È un'operazione effettivamente sul campo, molto rischiosa, insieme ai soldati afghani che gli italiani stanno peraltro addestrando, così come lo stanno addestrando i francesi e altri soldati occidentali. E gli italiani e gli afghani stanno insieme, dalla stessa parte, anche se lì poi è difficile capire chi sia tuo amico e chi sia il tuo nemico. Ecco, il libro però non è soltanto un libro di cronaca di guerra, ma è anche una grande e complessa, dicevo, storia di amore, con un lui che non è quello che dice di essere e che non può dire che cosa è e chi è. Quindi un groviglio sentimentale, ma soprattutto legato alle avventure di questo lui, che si scioglie poi nelle ultime pagine del libro con un artificio letterario, epistolare, molto, molto interessante. C'è una immagine che del folklore afghano che mi è servito un po' per raccontare questo personaggio, ed è quella del ragno cammello. Si dice che il ragno cammello è un ragno incredibilmente grande più di una mano, che infesta i deserti dell'Afghanistan e con cui Manuela si trova ad avere a che fare varie volte. Si racconta, gli afghani raccontano, che se il ragno cammello ti punge ti ruba l'anima, perché è un ragno che non sopporta la luce del sole, deve vivere nell'ombra. Ecco, a un certo punto Manuela pensa che quest'uomo sia successo qualcosa del genere, che gli abbiano rubato l'ombra, ed è in effetti quello che è realmente successo. Ecco, che cosa l'ha spinta? L'ultima volta che ci eravamo visti abbiamo parlato di Tintoretto, perché Melania Zucco, come ricorderete, è l'autrice di un bellissimo libro su Tintoretto. Che cosa ha spinta a cambiare così nettamente registro rispetto alla biografia di Tintoretto in quest'opera? Ma i libri che scrivo spesso sono legati da fili sottili, come quelli di una ragnatela, no? Che, in cui in realtà si tengono più di quello che possa sembrare. Io ho cominciato a scrivere i miei libri su Tintoretto interessandomi alla figura di Marietta, la figlia del pittore, pittrice anch'essa, una donna che nel Cinquecento aveva vissuto una vita indubbiamente per certi versi eccezionale, perché aveva voluto essere un artista e una musicista in un'epoca in cui alle donne questo non era consentito o era consentito solo in parte. E ho raccontato una storia di tanti anni fa. E volevo, dopo due libri in realtà su Tintoretto e su Marietta, volevo tornare a raccontare il nostro presente e a raccontarlo attraverso un personaggio che, come Marietta, benché in tutt'altro modo, ha scelto di fare una vita diversa, qualcosa che una donna appunto non avrebbe potuto fare, senza però smettere assolutamente mai di essere una donna, quindi di raccontare qualcosa sulla frontiera della femminilità di oggi che mi sembrava completamente inedito e soprattutto mi sembrava una sfida per me, perché a me piace in questo senso, come Tintoretto, forse come Manuela, affrontare delle sfide e quindi cercare anche di rinnovarmi ogni volta, di ricominciare da capo. Bene, ringraziamo Melania Mazzucco per la sua presenza, buona domenica. Visto che, come ricorderete, il paese ospite di questa edizione del Salone è la Spagna, vi voglio segnalare un libro di Marco Succio, Dal Movimiento alla Movida, il romanzo spagnolo dal franchismo a oggi, 1939-2011, pubblicato da Franco Angeli, 24 euro, 188 pagine, nel quale troviamo una sintesi molto interessante dello sviluppo della narrativa spagnola, in cui si parla di tanti personaggi che sono diventati anche molto popolari. Per esempio si parla della creazione di uno scrittore che è qui in questi giorni a Torino, e cioè Pérez Reverte, e del suo famoso Capitano alla Triste, un personaggio creato quasi per gioco, scrive l'autore, a quattro mani con la figlia Carlota, dodicenne, e un soldato e spadaccino che vive e malvive nella Madrid inquisitoriale d'inizio 600. Quindi anche questo è un libro che vi può accompagnare nella visita al Salone. Adesso parliamo invece dell'Italia politica, e lo facciamo parlando di un fenomeno politico che certamente ha segnato la storia degli ultimi anni in Italia e che oggi attraversa un periodo di grosso ripensamento, per non dire di grande crisi, e cioè il fenomeno della Lega. A questo fenomeno dedica un libro Marco Aime, che è qui con noi e che saluto. Il suo libro si intitola Verdi tribù del nord, la Lega vista da un antropologo, 168 pagine, 12 euro, è pubblicato da La Terza. L'antropologo viene attratto dal fenomeno della Lega perché questa, scrive Aime, ha saputo cogliere e interpretare prima e diversamente degli altri soggetti politici la svolta postmoderna. Ecco, che cosa consiste in politica questa svolta postmoderna? Beh, in pratica possiamo dire che con la caduta del muro di Berlino e la successiva caduta dell'Unione Sovietica sono un po' venute meno quelle che erano le cosiddette grandi narrazioni, le grandi ideologie del Novecento, a cui tutti facevano riferimento, movimenti politici e tutti in chiave ideologica e quindi in una lettura anche sociale e politica che era decisamente politica. In questo vuoto che si è venuto a creare, in Italia oltretutto poi c'è anche il crollo della classe dirigente tradizionale con Mani Pulite, 20 anni fa esattamente, ecco, la Lega gioca e inserisce l'opzione etnica. Ecco, proprio nel momento in cui si tende a parlare di globalizzazione e comincia a serpeggiare un po' questa paura di perdersi in una sorta di magma omogeneizzato dove verrebbero annullate le specificità, la Lega e non solo, ma altri movimenti di questo di carattere etnonazionalista che di cui abbiamo sentito parlare in tutta Europa, ecco che al scomparse le ideologie giocano l'opzione etica, cioè non più la costruzione di una società su base ideologica, ma sul legame terra e sangue. E su questo si innesta anche il tema del populismo, al quale accenna il suo libro. Ecco, lì non le pare che la Lega abbia scosso l'albero del populismo di cui adesso raccolgono i frutti altri movimenti politici? Beh, sicuramente la Lega, diciamo, è andata anche di pari passo col berlusconismo, quindi con nuove retoriche. La Lega in più ha direi forse utilizzato anche una serie di linguaggi, di tecniche comunicative decisamente insolite. Al di là, ecco, dei giudizi che si possono dare, ha spezzato una tendenza, cioè una corrente del politichese classico a cui eravamo abituato, gettando nell'agone della politica italiana un immaginario e un linguaggio totalmente nuovi. Ecco, a proposito di queste tecniche comunicative, di questa capacità di costruire un immaginario, si parla naturalmente del suo libro della Padania. E lei scrive come non importa che la Padania non esista, ma l'importante è che sia stata creata come mito. Sì, io in realtà infatti mi ero interessato alla Lega più che altro per cercare di analizzare come la Lega sia riuscita a costruire un modello di nazionalismo o di etnonazionalismo in questo caso, che per certi versi era perfettamente corrispondente ai nazionalismi storici, classici, quelli del 7-800, ma per altri versi invece anche innovativo. E tutti i nazionalismi hanno preceduto le nazioni, non esisteva la Germania, prima la si è pensata e poi la si è fatta, ma anche l'Italia. Quindi la Padania non ha importanza che esista, perché esisterà nel momento, semmai la maggioranza degli abitanti ci crederà, e a quel punto sarà una realtà come lo sono tutte le nazioni del mondo. Un altro paradosso al quale lei accenna è quello di Pontida, che è diventato un grande mito fondante della Lega, e che paradossalmente invece nel panorama letterario italiano è stato costruito come simbolo della futura riscossa risorgimentale. Sì, questo, diciamo, è un capolavoro della Lega di mischiare immaginari e elementi storici diversissimi, più o meno veri, più o meno credibili, ed intrecciarli in un'unica grande raffigurazione. Molti storici medievisti hanno grossi dubbi, anzi la maggior parte penso che in realtà proprio il giuramento di Pontida non ci sia stato come fatto reale. Quello che noi conosciamo paradossalmente è la ricostruzione letteraria fatta in epoca risorgimentale, proprio per dare una sorta di scossone nella lotta per l'unità d'Italia, proprio quella che la Lega in realtà combatte, profetizzando o cercando la secessione. Benissimo, ringraziamo Marco Aime. Ricordo che su questo tema è uscito anche il libro di Gianluca Passarelli e Dario Tuorto, Lega e Padania, storie e luoghi delle camicie verdi. Questo è pubblicato dal Mulino, 230 pagine, 16 euro. Anche qui c'è lo sforzo di capire che cos'è stata la Lega, e c'è la domanda come sia stata possibile che intorno alla Lega calasse periodicamente una fumosa spirale del silenzio che paradossalmente ne amplifica i connotati mitologici. Cioè, questo libro è anche un richiamo all'informazione perché faccia meglio il suo lavoro e capisca i grandi fenomeni che sono in corso in politica e che hanno naturalmente modificato radicalmente il panorama della politica nel nostro paese. Concludiamo la nostra trasmissione. Oggi naturalmente ricordo che Torino sarà in festa per la conclusione ufficiale del campionato di calcio. Complimenti alla Juventus e agli sconfitti. Un libro di consolazione, segnalo il libro di Gigi Garanzini, che è una voce nota a questa radio, Nereo Rocco, la leggenda del Paron continua, pubblicato da Mondadori, 204 pagine. Il libro è pubblicato in occasione del centenario della nascita di Rocco, che cadrà proprio domenica prossima, e in questa occasione viene inaugurata a Trieste una grande mostra curata dallo stesso Garanzini, una mostra multimediale che sarà aperta fino al 31 luglio al magazzino 36 del Porto Vecchio di Trieste. Nereo Rocco, appunto, la leggenda del Paron, un grande allenatore, come voi ben sapete, che secondo Garanzini non è stato un meteora, ma che è stato importante nella storia del calcio perché ha lasciato degli eredi, tanti suoi ragazzi che da lui hanno imparato il mestiere giorno dopo giorno. Nereo Rocco ha messo al mondo, tra un'infinità di altri, Bearzot, Trapattoni, Maldini, discendenti diretti, figli del Paron, come loro stessi hanno autocertificato con orgoglio in queste pagine. e a questo punto naturalmente non abbiamo più tempo per l'appuntamento domenicale con il confettino, con il libro per ragazzi, e quindi non mi resta che ringraziare i nostri autori che sono stati con noi, Melania Mazzuc e Marco, per il libro sulla Lega. Vi ricordo il nostro appuntamento domenica prossima, vi auguro una buona visita a voi che siete qui al Salone del Libro, e una buona domenica a tutti, e appuntamento alla trasmissione della settimana prossima.